Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Unione Europea ha preso una sberla. E quando prendi una sberla sei sotto shock. Ma si chiama sberla quella che è accaduta, non chiamatela in un altro modo. A fronte di questa sberla, o l'Unione Europea si rende conto che è arrivato il momento di rilanciare sulle cose che valgono davvero, oppure avremo perduto un'occasione. E quindi si continua a riflettere su questa Europa, dove va, come bisogna cambiarla, è arrivato questo ceffone, però magari è l'occasione giusta per capire in che direzione muoversi. Sì, si continuerà ancora moltissimo a discutere su questo e noi parleremo naturalmente ancora della seconda giornata del Consiglio europeo, sempre sulla Brexit, anche se poi è venuta fuori una polemica anche sulle banche tra Merkel e Renzi, ci sono stati un po' di botte e risposta tesi, e poi naturalmente torneremo anche sul terribile attentato in Turchia. Ieri proprio mi hanno dato qui Effetto Notte notizia in tempo reale mentre arrivavano le primissime agenzie. Capiremo quali sono gli sviluppi, il bilancio è pesantissimo, bisogna capire ancora però quali sono le dinamiche. E intanto vedevo poco fa, anche se adesso il computer si è bloccato, un'agenzia secondo la quale dagli Stati Uniti la Casa Bianca dice che, e la CIA in primis, dice che è quasi sicuro, insomma, che la firma sia quella dell'ISIS. Ma fra i vari argomenti poi parleremo anche di Euro 2016, gli infortuni, il medico azzurro della nazionale che dice no, forse De Rossi riusciamo a rimetterlo in piedi. Però al di là di questo, a proposito invece della Brexit, ritorniamo su questo tema, quello che vi voglio sottoporre questa sera è questo. Con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e quindi dalle istituzioni europee succede una cosa che già aveva lanciato, devo dire, argutamente un ascoltatore proprio poche ore dopo la Brexit, la decisione, l'esito del referendum in Gran Bretagna, qui Effetto Notte, riguarda la lingua inglese usata appunto nelle istituzioni europee. Parrebbe adesso che cominci a scricchiolare questo uso della lingua di Shakespeare, che si usa da tanti anni, aveva soppiantato il francese delle origini della comunità europea, aveva soffocato anche ambizioni per esempio dei tedeschi di usare di più il tedesco. Bene, adesso da voce di corridoio parrebbe che ci sia la chiara intenzione di far fuori l'inglese e di far prevalere qualche altra lingua, in particolare il tedesco. Voi sareste d'accordo, nel senso fuori la Gran Bretagna e quindi fuori anche la sua lingua, l'inglese? 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri sms e whatsapp, 349-238-6666, oppure comodamente giorno e notte per voi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, quindi andate lì e scrivete le vostre opinioni, fuori o dentro anche la lingua inglese, se se ne va la Gran Bretagna. Intanto, come sempre, vi racconto un riassunto della giornata. L'attentato all'aeroporto di Istanbul, non c'è ancora nessuna rivendicazione. Intanto, secondo i media turchi, gli 007 avevano già avvertito 20 giorni fa le autorità di possibili attentati. Brexit al Consiglio europeo, i 27 avvertono Londra. Niente negoziati prima della notifica dell'uscita dell'Unione europea e nessun mercato unico a misura della Gran Bretagna. Il decreto banche e legge, scontro Roma-Berlino sulle regole. Merkel dice la flessibilità un limite. Renzi risponde, voi siete stati gli ultimi a violarle. Il caso Regeni, il Senato blocca le forniture per gli F-16 all'Egitto. La scia infinita dei femminicidi, siamo al 61esimo del 2016, dopo la donna uccisa e messa in frigorifero dall'ex convivente a Modena. Adorno, nel pavese un uomo ha sparato alla compagna che lo voleva lasciare, uccidendola davanti alla figlia 12enne, è stato arrestato, e a Firenze caccia al killer che ha ucciso una donna e un trans. Migranti, recuperato il relitto del naufragio del 2015, fu la più grande tragedia nel Mediterraneo, circa 700 i morti. Calcio, Europei 2016, sabato Italia-Germania, in forse De Rossi, Candreva non recupera. Partiamo quindi dall'attentato di ieri all'aeroporto di Istanbul, a quasi 24 ore dall'attacco allo scalo Ataturk. Non è arrivata ancora nessuna rivendicazione, il bilancio è di 41 morti e 239 feriti. Avrebbe agito un comando di 7 persone, le dinamiche però, come vi dicevo, sono ancora da chiarire. Intanto i media turchi rivelano che gli 007 avrebbero avvisato già 20 giorni fa le autorità competenti del rischio di possibili attentati, e proprio uno di questi poteva essere nell'aeroporto di Istanbul. Per avere poi ulteriori dettagli ci colleghiamo tra poco con la città turca e poi cercheremo anche di capire se davvero ci possa essere dietro questo terribile attentato l'ISIS, e capire anche perché ha colpito la Turchia e in questo momento. Attentato che preoccupa Stati Uniti ed Europa, e dalla Francia arriva la notizia di nuove minacce arrivate al settimanale satirico Charlie Hebdo. A quasi un anno e mezzo dall'attacco alla redazione, in cui persero la vita 12 persone, fra cui 5 disegnatori del giornale, Charlie Hebdo è di nuovo nel mirino dei terroristi, tanto che la direzione del settimanale ha sporto denuncia a carico di ignoti per l'intensificarsi dei messaggi di morte ricevuti via Facebook e per posta. La polizia, stando alle Parisien, avrebbe aperto un'inchiesta già una settimana fa. Niente può essere lasciato al caso, ha confidato al quotidiano parigino un poliziotto che ha voluto rimanere anonimo. I responsabili saranno identificati e dovranno chiarire la propria posizione. Intanto i messaggi sono spariti e per il momento non se ne conoscono gli autori. Il timore è che si possa trattare di lupi solitari, proprio come i fratelli Guashi, responsabili della strage alla redazione del 7 gennaio dello scorso anno. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo al Consiglio europeo a Bruxelles. L'Europa guarda già oltre la Brexit nel vertice che è stato senza la Gran Bretagna. Nessun mercato interno à la carte su misura per la Gran Bretagna. L'Europa saluta con un avvertimento il partner britannico a conclusione del primo storico summit informale senza Londra al tavolo comune. Chi vuole essere nel mercato unico dovrà accettare le quattro libertà fondamentali, compresa la libera circolazione delle persone, mandano a dire in coro il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk. Juncker aggiunge che nessuna modifica dei trattati sarà necessaria in questa nuova pagina dell'Europa che si apre nel dopo Brexit. Per il resto si conferma la fase di stallo nella separazione. La linea è chiara, nessun tipo di negoziati con Londra finché non sarà notificata l'attivazione dell'articolo 50. Se ne riparla a settembre. Nel frattempo la nuova leadership conservatrice a Downing Street dovrà definire la linea, mentre i 27 si ritroveranno fra 3 mesi a Bratislava per fare il punto. Dettaglio non insignificante, qualsiasi accordo futuro con Londra nelle vesti di paese terzo dovrà prevedere un bilanciamento tra diritti e obblighi. For heaven's sake, man, go! Oltre manica intanto in un acceso dibattito a Westminster, Cameron invita il leader laburista Corbyn a seguirne l'esempio e dimettersi e tranquillizza i cittadini europei residenti nel regno di sua maestà. Non ci saranno conseguenze per loro, ma neppure bisogno di leggi speciali per tutelarli. Intanto la premier scozzese Sturgeon ha avviato a Bruxelles la sua offensiva diplomatica per mantenere la Scozia in Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a lavori conclusi, come vi dicevo, a lavori conclusi del Consiglio europeo c'è stato il botta e risposta tra Merkel e Renzi sulle banche. Le regole devono essere rispettate, non possono essere cambiate ogni 2 anni. Arriva alla fine del vertice europeo la stoccata di Angela Merkel all'Italia. Palazzo Chigi è pronto a intervenire per proteggere il sistema bancario se necessario, ma la nuova direttiva europea sul bail-in esclude interventi pubblici e Berlino non vuole deroghe. Credo che sia stata già concessa una certa flessibilità a determinati paesi, dice la cancelliera tedesca. Subito la replica di Matteo Renzi. Nessuno di noi vuole cambiare le regole. Le regole sono state cambiate l'ultima volta nel 2003 per consentire alla Francia e soprattutto alla Germania di superare il tetto del 3%. Allora il governo italiano, guidato da Silvio Berlusconi, accettò di violare le regole per fare un favore alla Francia e alla Germania. In più, continua il Premier, la Germania nel 2011 ha messo sul piatto oltre 200 miliardi per le sue banche, mentre l'Italia non lo ha fatto. Ora non si può più e la questione non è all'ordine del giorno. Poi rassicura, siamo in grado di proteggere correntisti e cittadini con le regole attuali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uno sguardo alle reazioni anche dei mercati finanziari. In borsa, seconda seduta di rialzo per l'Europa dopo lo shock Brexit. Milano ha chiuso sui massimi di seduta, nonostante l'andamento negativo di molti titoli bancari. Il FTSE MIB è salito del 2,21%, a Parigi più 2,6%, Francoforte più 1,75% e Londra più 3,6%. E siamo al caso Regeni. Arriva il primo segnale forte dall'Italia nei confronti dell'Egitto. L'Aula del Senato ha infatti dato il via libera l'emendamento al decreto legge missioni che blocca le forniture di pezzi di ricambio per gli F-16 all'Egitto. Siamo alla politica italiana. Renzi da Bruxelles è rientrato a Palazzo Chigi, dove stasera è previsto un nuovo appuntamento social. Matteo risponde, l'appuntamento fisso del mercoledì che dovrebbe essere iniziato da circa 10 minuti, poi cercheremo di seguirlo. Renzi sicuramente toccherà probabilmente il tema del referendum alla luce del fatto che si riapre la partita sull'Italicum, sulla legge elettorale. A settembre infatti il testo torna alla Camera, la legge potrà essere modificata per evitare vizi di incostituzionalità. C'è anche una notizia che riguarda Forza Italia. Italia, Silvio Berlusconi annuncia un cambio nel partito, nella tesoreria. La senatrice Maria Rosaria Rossi ha svolto, scrive, negli ultimi due anni con grande competenza, correttezza e lealtà un complesso e delicato incarico di commissario straordinario del partito. Prendo atto con rammarico delle sue dimissioni al termine dell'esercizio contabile. Dopo ampie consultazioni ho ritenuto di affidare il compito di commissario straordinario di Forza Italia al senatore Alfredo Messina, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, così dice Silvio Berlusconi. E arriviamo alla cronaca, che parte purtroppo dall'ennesimo femminicidio, il 61esimo dall'inizio dell'anno. Si trova in carcere a Pavia, accusato di omicidio volontario, Roberto Garini, il 51enne operatore sociosanitario che ieri sera con 10 colpi di pistola ha ucciso la sua compagna Emanuela Preceruti, 44 anni. Lei aveva intenzione di lasciarlo. Un litigio furioso, la donna si barrica in casa, non lontana da quella di Garini. Lui sfonda la porta e spara nei pochi metri quadri del bagno, dove la donna si era rifugiata insieme alla figlia 12enne. La ragazzina, ferita in modo lieve, ha avuto la prontezza di fingersi morta per poi uscire in strada e chiedere aiuto. Garini invece ha preso il cellulare e con un SMS ha pregato un conoscente di chiamare le forze dell'ordine, alle quali si è consegnato senza opporre resistenza. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, il solito copione a poche ore poi dall'altro femminicidio di cui abbiamo parlato ieri, dell'uomo che ha ucciso la compagna che lo voleva lasciare e l'ha messa in frigorifero senza che nulla cambi, routine quotidiana. E poi c'è anche questa altro caso di cronaca, un 42enne originario di Firenze, un uomo ricercato dai carabinieri con l'accusa di essere l'autore del duplice omicidio avvenuto questa mattina. Ignote al momento le motivazioni. Avrebbe ucciso la transessuale brasiliana di 45 anni colpendola con un coltello da cucina. Poi si sarebbe scagliato contro la 27enne dominicana, ritrovata in fin di vita nell'androne del palazzo e morta in ospedale. Dopo il fatto avrebbe abbandonato l'arma nell'abitazione e si sarebbe allontanato dalla zona a bordo di un'auto. Ad incastrare Mirko Alessi, 42enne di Firenze, è stata la testimonianza di un'altra dominicana di 25 anni, scampata alla mattanza gettandosi dalla finestra dell'abitazione al primo piano. Il duplice omicidio è accaduto poco prima delle 7 del mattino in un appartamento a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. A dare l'allarme i vicini di casa svegliati dalle urla. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si apprende che Alessi, il killer ricercato, avrebbe telefonato ai genitori poco dopo il duplice omicidio raccontando l'accaduto prima di far perdere le sue tracce e dicendo, pensate, ho fatto una cazzata. Migranti, il naufragio verificatosi nella notte tra il 18 e il 19 maggio dello scorso anno a 60 miglia a nord della Libia, in cui si ipotizza abbiano perso la vita almeno 700 persone, è il più grave dal dopoguerra che si è verificata nel canale di Sicilia, peggiore anche della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013 che fece 366 morti e 20 dispersi. Il relitto di questo grande naufragio è stato recuperato dalla Marina Militare a 370 metri di profondità e sarà trasferito nei prossimi giorni ad Augusta in provincia di Siracusa. Arriviamo all'omaggio a Bud Spencer, oggi in Campidoglio, dove una folla commossa di VIP e gente comune gli ha dato l'ultimo saluto. In sottofondo le colonne sonore dei suoi film, ai piedi del feretro la bandiera della Lazio e una scatoletta di fagioli portate dai suoi fan, sfidando il caldo e una lunga fila erano in molti quelli che oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Bud Spencer nella camera ardente in Campidoglio. Sono passato solo per fare un saluto al grande Bud Spencer, perché insomma è stato un personaggio per tante generazioni. Una grande perdita, però lui è stato fino all'ultimo un grande personaggio. Bud, o Carlo che si voglia chiamare, ci ha cresciuto. Perfino a me che ho 29 anni, io ci sono cresciuto che almeno due volte al mese vedevamo Trinità con mio padre in videocassetta. Commosso il ricordo dei figli dell'attore, Cristiana e Giuseppe. A noi ragazzi ci lascia un sorriso e spero che abbia lasciato lo stesso sorriso alla gente che l'ha seguito. Mi piace continuare a pensare a Terence e a Bud insieme. Al di là della famiglia è stata la prima persona a cui abbiamo comunicato che mio padre non c'era più e era molto emozionato. Di rientro dall'estero, Terence Hill dovrebbe partecipare ai funerali di Bud Spencer che si terranno domani nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo invece invece adesso di Paul Simon potrebbe essere arrivato il momento del Sound of Silence, della canzone del silenzio, una delle sue famosissime, uno dei più prolifici e longevi cantautori americani della sua generazione, potrebbe andare in pensione in autunno dopo la conclusione del nuovo tour europeo. A quel punto, a 75 anni compiuti, i piani del musicista sono di viaggiare per un anno con la moglie, musicista e compositrice Eddie Brickell. Poi si vedrà, dice, sto arrivando alla fine, ha detto la metà del duo Simon and Garfunkel al New York Times, nonostante che l'ultimo album Stranger to Stranger abbia debuttato in giugno al terzo posto della classifica Billboard 200, facendo concorrenza anche a Beyoncé. Lo show business non mi interessa più per niente, ha detto nel suo concerto a Central Park. Canzoni iconiche come questa che sentite, Mrs. Robinson, che fece da colonna sonora al laureato, al malinconico Bridge Over Troubled Water. Simon si sta preparando in questi giorni per le ultime tappe del suo tour nordamericano e poi appunto potrebbe andare, purtroppo diciamo, in pensione. Per chiudere il calcio, Euro 2016, i quarti cominciano domani con Polonia-Portogallo. L'Italia intanto si sta preparando al super match di sabato contro la Germania, con le incognite di due infortunati. Forse De Rossi potrebbe essere recuperato, poi capiremo, anche collegandoci con la Francia. Intanto mi collego invece direttamente con voi, con i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso il numero 349-238-6666. L'argomento che vi ho sottoposto questa sera è quello della possibile uscita dalle istituzioni europee anche della lingua inglese, perché qualcuno, soprattutto i tedeschi, cominciano a dire adesso la Gran Bretagna è fuori anche la sua lingua, che finora è stata predominante. Voi sareste d'accordo o no? Cominciamo a leggere qualche messaggio. Per esempio, dice questo ascoltatore su WhatsApp: se pensate davvero di poter sostituire l'inglese col tedesco, siete malati di mente, hanno fatto bene gli inglesi a scappare da questa gabbia di matti. Poi un altro messaggio: ma sono pazzi, inglese forever. Un altro dice: no, è una lingua facile da apprendere. Poi, fuori la lingua inglese, scrive invece un altro ascoltatore, fuori la lingua inglese dall'Europa, rivalutiamo l'italiano. Paolo finalmente si firma: facciamoci del male, già sappiamo male l'inglese, impariamo il tedesco. E poi sostituire l'inglese col tedesco, montagne di segatura nel cervello, questo è un altro commento. E vi leggo anche questo: la lingua inglese è molto semplice, anche come struttura grammaticale non sarà mai sostituita, anzi il contrario. Questo scrive Piero da Salerno. Continuate quindi con le vostre posizioni rispetto a una possibile uscita dalle istituzioni europee anche della lingua inglese, così come si vocifera almeno nei corridoi appunto dei palazzi europei. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Vi state scatenando su questa cosa della lingua inglese che potrebbe, secondo voci di corridoio europee, essere estromessa dai palazzi delle istituzioni europee, perché appunto, visto che se ne va la Gran Bretagna, così ha deciso, allora c'è qualche ambizione tedesca soprattutto che vorrebbe prendere il posto dell'inglese. Allora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al numero in WhatsApp e SMS 349-238-6666. Dice per esempio Ale da Senigallia: English forever. Poi un altro: l'inglese è semplice e facile, già lo parlano quasi tutti. Un altro messaggio: l'inglese deve rimanere. Poi questo SMS: fuori l'inglese, fuori dal mondo anacronistico. Un altro scrive: meglio il francese. Un altro esclama: il tedesco no, no al tedesco. Un altro messaggio. Poi Alessandro da Fermo: l'Unione Europea ripudia l'inglese, ricorda la storia del marito che si evira per fare dispetto alla moglie. Anna da Roma scrive: sì, meglio l'italiano che il tedesco. Poi quest'altro messaggio dice: l'inglese ormai è standard internazionale, deve restare nelle istituzioni europee, non solo in quanto lingua ufficiale di Aere e Malta. E poi tantissimi altri messaggi, vedo che su questa cosa insomma ci sono molti pareri, chi è pro, chi è contro, chi propone un'altra lingua, via l'inglese come prima lingua dalla scuola, addirittura un altro ascoltatore. Va bene, mentre voi proseguite vi ricordo prima di tutto, prima di iniziare con gli ospiti e l'approfondimento dei vari temi, le notizie più importanti della giornata. Tensione tra Roma e Berlino sulle banche. Basta riscrivere le regole, dice la cancelliera Merkel. La flessibilità ha un limite. Renzi risponde lì a Bruxelles: voi siete stati gli ultimi a violarle. L'Europa 27 nel Consiglio europeo avverte Londra: niente mercato unico su misura per la Gran Bretagna. Intanto è pronta l'agenda strategica per rilanciare l'Europa. Istanbul sotto attacco terrorista, 41 morti all'aeroporto, tra i kamikaze, tra pochissimo ne parliamo. Si riapre, per quanto riguarda la politica italiana, la partita sull'Italicum, a settembre torna torna alla Camera. E poi è stato approvato questo emendamento per il caso Regeni, stop ai pezzi di ricambio per gli F-16 per l'Egitto. Migranti, è stato recuperato il relitto del naufragio del 2015 che fu la più grande tragedia nel Mediterraneo, circa 700 morti. E poi ancora femminicidi, un uomo che uccide la compagna davanti alla figlia 12enne perché la voleva lasciare. Questo è successo a Dorno nel paese, lui è stato arrestato, un'infermiera di 51 anni. E poi un uomo che è ricercato a Firenze ha ucciso una donna e un trans e ha cercato di uccidere anche un'altra. E poi gli azzurri contro quello che viene definito l'Everest tedesco senza Candreva e De Rossi. Quindi parliamo, torniamo a parlare, vi dicevo proprio ieri in diretta qui a Effetto Notte, ne abbiamo parlato appena sono arrivate notizie delle esplosioni dell'attentato di ieri allo scalo Ataturk di Istanbul in Turchia. Un attacco terroristico sferrato appunto all'aeroporto internazionale pieno di turisti, di viaggiatori, dopo poco appunto le 21 ora italiana. Un attentato tremendo che ha provocato 41 morti e 239 feriti secondo l'ultimo bilancio. In azione un comando di 7 persone, a colpire sarebbero stati 3 kamikaze. Secondo i testimoni gli attentatori si sarebbero fatti esplodere all'ingresso del terminal dei voli internazionali. E già in serata ieri il ministro della giustizia turco aveva detto c'è l'ombra dell'ISIS. Vedevo poco fa invece anche questa agenzia che parlava della CIA che dice è senz'altro la firma del sedicente califfato, anche se tuttora non ci sono state rivendicazioni. Non so se ci conferma il nostro Marco Barbonaglia da Istanbul. Marco, buonasera. Sì, Marco. Manca la rivendicazione in questo mosaico che a parte quello sembrerebbe completo, ma manca la rivendicazione che non è un tassello da sottovalutare. Tutto quanto sembra portare all'ISIS, le modalità sono quelle dello Stato Islamico, di tutti gli attentati che ci sono stati ad Istanbul, quantomeno non sono stati pochi nell'ultimo anno e mezzo, è il più sanguinoso, il più spaventoso che si sia visto. Tutto sembra portare allo Stato Islamico, manca appunto la rivendicazione. Anche qua, anche il premier Bin Ali Yildirim questa mattina ha in qualche modo fatto capire che i sospetti sono tutti sull'ISIS, ma appunto non è, manca per una conferma finale, manca la rivendicazione, di solito, come sappiamo, molto plateale dell'ISIS. Marco, tra l'altro questo attentato dà un colpo mortale, un colpo di grazia, come dire, al turismo in Turchia, no? C'erano già stati vari altri attentati, poi questo proprio nell'aeroporto internazionale, che, dove c'è un via vai di turisti. Certo, certo, e oltretutto colpisce anche, non è questo l'aspetto ovviamente più spaventoso e più importante, ma colpisce per casualità o probabilmente perché ce n'erano parecchi anche degli ucraini, dei giordani, degli iracheni, dei cinesi, voglio dire, su queste nazioni stava puntando o comunque si stava puntellando il turismo turco in questo momento, dove anche per la strada vedono pochi occidentali, ma c'erano altri turisti che ancora in qualche modo sorreggevano un'economia, per quanto riguarda il turismo ovviamente sto parlando, in netta difficoltà. E vedremo, la città comunque è anche in un momento di festa in questo momento, perché siamo nel mese del Ramadan, quindi anche ieri sera al momento dell'attentato in ogni parte della città la gente era fuori, aveva appena finito di consumare l'iftar, il pasto con il quale si interrompe il digiuno, e ci sono teatri per strada all'aperto, cinema all'aperto, concerti, quindi c'è molta gente in giro e non so nelle prossime serate cosa succederà dopo un attacco così spaventoso. Infatti Marco, proprio per chiudere, ti risulta che appunto dai media turchi parlano del fatto che l'intelligence turca, i 007 turchi, avrebbero già avvisato 20 giorni fa le autorità competenti che poteva esserci il rischio di un attentato come questo? Ne ha parlato un giornalista di Doğan TV nel tardo pomeriggio, Hande Ferhat, e ha appunto detto, come esattamente, correttamente detto tu, ha detto che in una lettera spedita a personaggi di altissimo livello dello Stato turco c'erano queste indicazioni di possibili attentati ad Istanbul. Tra gli obiettivi indicati ci sarebbe stato anche l'aeroporto Ataturk. Naturalmente è molto difficile verificare questo tipo è un'indiscrezione ed è realmente molto difficile da confermare. Ricordiamo solo in chiusura che è importante il fatto che l'attentato è arrivato in un momento particolare, cioè nel momento in cui la Turchia stava riallacciando i rapporti con Israele e riaprendo in qualche modo anche a Mosca con la Russia. E di questo infatti parliamo adesso. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Adesso invece parliamo con Alessandro Orsini, che è docente di sociologia del terrorismo all'Università Luiss, autore di ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Bentornato Orsini. Buonasera a voi. Buonasera. Quindi se davvero dietro c'è lo Stato, il sedicente Stato islamico, quindi sarebbe una dichiarazione di guerra nei confronti del presidente turco Erdogan, perché ha cambiato anche la sua azione, la sua politica, no? Nei confronti dell'ISIS? Per diverso tempo erano stati, un po', come si può dire, tacitamente neutrali l'uno verso l'altro e poi a un certo punto però Erdogan ha deciso di cambiare politica. È esattamente così. Diciamo che nel rapporto tra la Turchia e l'ISIS è possibile distinguere due fasi. La prima inizia il 29 giugno del 2014 con la proclamazione dello Stato islamico e arriva fino al 23 luglio del 2015, quando la Turchia consente per la prima volta agli Stati Uniti di utilizzare le basi turche per bombardare le postazioni dello Stato islamico. E questa prima fase si caratterizza per la non lotta della Turchia contro l'ISIS. Poi c'è una seconda fase che inizia appunto il 23 luglio del 2015 e arriva fino ad oggi, in cui la Turchia è diventato uno dei paesi che ha condotto in maniera più efficace la lotta contro l'ISIS. Pertanto la propaganda di Putin, secondo cui la Turchia favorirebbe gli interessi dell'ISIS, è una pura falsità, come dimostra il fatto che la Turchia è stato finora il paese più colpito dall'ISIS al di fuori dei suoi confini in Siria e in Iraq. Poi, se vuole, possiamo ragionare sulle ragioni per cui Erdogan ha deciso di passare dalla prima alla seconda fase. Io in maniera molto sintetica gliela dico subito qual è la ragione, perché Erdogan aveva l'interesse all'esistenza dello Stato islamico per tutta una serie di ragioni, perché Erdogan preferisce avere uno Stato islamico debole che può schiacciare con un dito, perché lo ripeto che l'ISIS è il nulla che avanza nel niente, cioè parliamo sostanzialmente di un nano, anche se noi lo rappresentiamo come un gigante. Quindi Erdogan preferisce avere uno Stato molto debole, uno Stato islamico molto debole, piuttosto che uno Stato laico molto forte. Preferisce Erdogan avere uno Stato di jihadisti debolissimo piuttosto che uno Stato liberale fortissimo ai propri confini, per una serie di ragioni che sarebbe troppo complesso spiegare in questo momento. Per cui, perché Erdogan è passato dalla prima alla seconda fase? Ma è molto semplice, perché nessuno si può permettere il lusso di mettere in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti a un certo punto hanno organizzato una serie di incontri con Erdogan e con una forza cortese, che è tipica del linguaggio diplomatico che non accetta repliche, si sono recati da Erdogan e gli hanno detto: tu adesso la smetti con questo atteggiamento attendista, entri in lotta contro l'ISIS. Per cui Erdogan si è trovato costretto a fare una scelta e ha accontentato gli americani. Consideri che gli americani hanno una linea di politica estera molto semplice, che si riassume con una formula che è la seguente: coloro che non combattono contro il terrorismo islamico sono nostri nemici, o reali o potenziali. E la storia recente dimostra che chiunque provi a mettere in pericolo, con atti o con omissioni, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti fa una brutta fine. Professor Orsini, un'ultima cosa, ce la ricordava anche Marco Barbonaglia da Istanbul: è dovuto anche questa recrudescenza degli attacchi dell'ISIS nei confronti della Turchia anche al fatto che la Turchia ha ripreso da pochissimo i rapporti con la Russia di Putin, no, dopo che era stato abbattuto il jet russo, eccetera, quindi c'è stata questa tensione per diverso tempo, e anche con Israele, quindi anche questi passaggi possono aver causato... No, nella maniera più assoluta, sono totalmente irrilevanti, non hanno nessuna importanza. Lo Stato islamico è un attore politico internazionale irrilevante, ha poche risorse, non può permettersi il lusso di realizzare attentati terroristici per intervenire in relazioni complesse che caratterizzano la politica internazionale in Medio Oriente. Quindi in alcun modo questo attentato terroristico ha a che vedere con il miglioramento delle relazioni tra Erdogan e Putin o tra Erdogan e Israele. Chiarissimo, professor Alessandro Orsini, la ringrazio, la saluto. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buonasera. Ora invece torniamo più nei confini europei. Si è chiusa la due giorni oggi del Consiglio europeo a Bruxelles. Ieri la riunione era ancora a 28, ne abbiamo parlato. Oggi invece i paesi membri sono scesi a 27, perché Cameron hanno salutato, congedato gentilmente, non è stato invitato proprio dopo l'addio del Regno Unito. E proprio il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione europea è stato l'argomento principale, la Brexit, no? Di questa due giorni, tema centrale. Nel frattempo ieri il Parlamento europeo, vi ricordavo, che ha votato questa mozione a maggioranza speranza per accelerare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, attivando l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Le conclusioni di oggi sono più o meno le stesse di ieri. L'Unione Europea chiede a Londra, l'Unione Europea 27, a Londra di fare presto sul ritiro dall'Unione e avverte che non ci sarà nessuna modifica dei trattati né un mercato unico su misura della Gran Bretagna. Ce lo conferma Matteo Villa dell'ISPI, buonasera. Sì, buonasera. Sì, più o meno come avete detto voi, in realtà credo che la cosa interessante sia che all'interno del documento c'è una posizione più o meno attendista, cioè si dice al Regno Unito fate in fretta, ma non gli si chiede di farlo subito. La stessa cosa aveva fatto il Parlamento Europeo, no? Nella mozione diceva il prima possibile. Il Parlamento preme perché si inizi subito, il Consiglio sa che il governo, c'è una crisi politica all'interno del Regno Unito e non sarebbe saggissimo iniziare subito, e poi comunque temporeggiando magari gli animi si calmano un attimo. Villa, però evidentemente la Gran Bretagna si è riconosciuto, insomma, che deve essere lei a notificare questa uscita, che non ci possono essere forzature, no? Non è che possono prenderla e buttarla fuori a forza, però le hanno fatto capire che se intende rimanere, perché Cameron aveva detto noi vogliamo rimanere nel mercato unico, e hanno confermato anche Juncker duramente, se vuole rimanere nel mercato unico deve poi anche attenersi a tutte le altre regole, quindi all'accordo di Schengen, alla libera circolazione anche delle persone, delle merci, eccetera. Assolutamente sì, Juncker ha detto non ci saranno sconti, anche lì il Consiglio Europeo ha ribadito la stessa cosa. È chiaro che ormai anche se siano escluse qualunque tipo di trattativa informale prima dell'inizio delle trattative formali, di fatto siamo già in trattativa, no? E quindi tutte le parti iniziano a dare la propria opinione più dura di quanto sia poi alla fine attendibile, no? Arrivare quando si arriverà al compromesso, e da parte nostra, ovviamente, da parte dei 27 dei paesi che rimangono, non può che esserci una posizione molto dura in cui si dice non è negoziabile che voi abbiate accesso al mercato unico dei servizi, delle merci e finanziario senza consentire la libera circolazione delle persone. Per quanto riguarda l'Italia, presidente Matteo Renzi, Matteo Villa, alla fine della conferenza stampa del Premier, in realtà l'argomento si è spostato un po' su questa polemica sulle banche, no? Con la Merkel, perché la Merkel non vorrebbe che a causa della Brexit, insomma, l'Italia cercasse degli aiuti per risollevare le banche, per salvaguardare i risparmiatori. Sì, su questo punto, di nuovo, diciamo, vediamo che di fatto le posizioni si divaricano in due giorni, cioè lunedì Merkel aveva invitato anche Renzi in questa sorta di trilaterale, alleanza, no? Trilaterale, esatto, con a Berlino, poi invece adesso si ritorna sulle posizioni sempre, cioè Merkel sa benissimo che la politica italiana da ormai diversi anni, quando c'è il governo Renzi, è quella dei piccoli passi, si sta un pezzettino alla volta sul fronte della fiscalità e della sostenibilità del nostro debito. Sappiamo che non rispetteremo le regole del fiscal compact, adesso andiamo a cercare un altro pezzettino, e Merkel ci dice, credo giustamente dal loro punto di vista, non fate altri passi avanti. Ovviamente ci sarebbe molto rimproverare anche la Germania da questo punto di vista, però di nuovo siamo di nuovo a trattative, vediamo che tutti i tipi di crisi che prima esistevano nell'Unione Europea non possono ricomporsi neanche di fronte a una nuova crisi, insomma, le vecchie. Una moltiplicazione, anzi. Grazie Matteo Villa, ricercatore ISPI, lo ricordo, per l'Area Europa, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buona continuazione, grazie Villa, grazie. I messaggi, prima di lasciarci brevemente, ancora sull'argomento che vi ho sottoposto questa sera, il fatto che si vocifera che qualcuno nelle istituzioni europee vorrebbe estromettere l'inglese come lingua ufficiale, visto che la Gran Bretagna ha deciso di uscire, e si mormora anche che ci sia un'ambizione tedesca a portare più in alto la propria lingua. Dice Giuseppe da Roma, l'inglese è indispensabile, perché metterlo al bando? Poi Umberto da Genova, mi viene da ridere, la Germania sta cercando di completare quello che non è riuscita a fare nella Seconda Guerra Mondiale, se non ricordo male proprio gli inglesi furono quelli che per primi si opposero alle mire dei tedeschi. Poi altri messaggi, per esempio anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Lorenzo, tutto il mondo finanziario industriale parla inglese, dagli Stati Uniti alla Cina, al Giappone, all'Australia, perché si ostinano a fare tutto il contrario di quello che dice il buon senso? Vittorio, speriamo che non impongano anche la visione dei telefilm tedeschi, questa è l'ipotesi, diciamo, piuttosto funesta di Vittorio. Ilaria, proprio non hanno altro a cui pensare, allora proporrei l'adozione del latino. Ha unito un impero dai confini ben più ampi di questa Europa. Luca, abbiamo capito tutto, ma sì, finiamo di distruggerla la nostra Europa. Claudio, inglese sì, inglese no, migranti sì, migranti no, ma in quante forme si veste il razzismo oppure è semplice infantilismo? Continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Ci sentiamo tra pochissimo. Come si trasforma una buona idea in un progetto di successo? Con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, la rubrica dove le buone idee incontrano ottimi sostenitori. In collaborazione con Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding, e Back to Work 24. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Il sabato alle 9.30 all'interno di Si Può Fare. Con Alessio Maurizi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano sempre con voi. Arrivano i vostri messaggi man mano tra un tema e l'altro, continuate a scrivere le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp e gli SMS al 349-238-6666 su questa ventilata ipotesi di estromettere dalle istituzioni europee non solo la Gran Bretagna, che ha scelto di uscire, ma anche la sua lingua, quindi l'inglese, e pare che salgano di quota le ambizioni tedesche per la propria lingua. Quindi ancora i vostri messaggi. Cristiano dice: perché non mettiamo l'esperanto? Bruno: gli inglesi boicottarono l'esperanto, ma ora impossibile sostituirlo, tantomeno con il tedesco. Fabrizio da Prato: il delirio di un'impotenza germanico va fermato. Clotilde: vogliamo sostituirlo con il lussemburghese in onore di quell'isterico di Juncker? Anna da Venezia scrive: la lingua inglese ha facili strutture grammaticali e per ogni età l'unica fra tutte. Valerio: il nostro inglese, quello internazionale, non ha quasi più niente a che fare con la lingua che parlano in Gran Bretagna e la lingua in tutti i continenti. Gianfranco dice: la nostra lingua è l'italiano, vi è un abuso dell'inglese da fare schifo, basta soprattutto a Renzi. Dice poi Marco da Pescara: dottoressa Giordano, ricordo a tutti che fu il fascismo a proibire l'uso dell'inglese in Italia, da antifascista difenderò sempre l'Inghilterra. Molto bene, intanto prima di passare allora al prossimo tema direi di ricordare velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata. L'attentato all'aeroporto di Istanbul: non c'è ancora nessuna rivendicazione, intanto secondo i media turchi gli 007 avevano già avvertito 20 giorni fa le autorità di possibili attentati. Brexit: al Consiglio europeo i 27 avvertono Londra, niente negoziati prima della notifica dell'uscita dall'Unione europea e nessun mercato unico a misura di Gran Bretagna. Il decreto banche e legge: scontro tra Roma e Berlino sulle regole, Merkel dice la flessibilità ha un limite, Renzi risponde voi siete stati gli ultimi a violarle. Il caso Regeni: il Senato blocca le forniture per gli F-16 all'Egitto. La scia infinita dei femminicidi: siamo al 61esimo dal 2016 dopo la donna uccisa e messa in frigorifero dall'ex convivente a Modena. Adorno: nel Pavese un uomo ha sparato alla compagna che lo voleva lasciare uccidendola davanti alla figlia 12enne, è stato arrestato. E a Firenze: caccia al killer che ha ucciso una donna e un trans. Calcio: Europei 2016, sabato Italia-Germania in forze dei rossi, Candreva non recupera. Le varie Max Franco: Matteo, quando arrivano i decreti attuativi per le unioni civili? In molti aspettano per fissare la data. Non io, ahimè, Max, mi dispiace per te. La volta buona, credo che sia questione ormai di qualche giorno. Maria Lugli: vieni a Mirandola e vedremo come siamo messi. Ma Mirandola è una delle realtà più interessanti. Leggo io i messaggi che arrivano qui a Effetto Notte, ma anche Matteo Renzi, come sentite nel suo Matteo risponde di ogni mercoledì, fa una specie ormai di show in cui risponde proprio a raffica ai vari messaggi che gli arrivano via mezzi social, da Twitter a Facebook a vari altri, insomma WhatsApp. Allora, Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Poi ogni tanto lo rialzeremo, proviamo a sentire se adesso è passato a questioni più pregnanti. Vabbè, parlava delle unioni civili, qualcuno lo invitava a Mirandola. E io ho ricevuto un'email pazzesca su questo di un genitore che no, niente, cose, scritto, io, cose ancora un po' più sociali, private, non so come definirle. Però Barbara Femmeri, intanto Renzi è tornato anche con la sua iNews oggi, questo organo di informazione sua, insomma, cui comunica le sue riflessioni, eccetera, eccetera, che di nuovo sul referendum di ottobre è tornato, no? Dicendo che il 60% ignora la riforma, che è una gigantesca campagna faranno porta a porta, e poi dice è un rischio certo, perché dice qualcuno mi accusa di averlo personalizzato questo referendum, ma chi ha paura non fa politica, e poi dice se perdo sì torno a casa, io non sono un pollo in batteria come loro, come quelli che hanno paura di perdere la poltrona. Fra l'altro pare anche che quindi l'Italicum torni in campo per modifiche. Allora facciamo chiarezza, sì. Per quanto riguarda l'Italicum c'è stata la richiesta da parte di Sinistra Italiana e quindi di un partito di opposizione di mettere all'ordine del giorno una mozione alla riapertura a settembre, alla riapertura dopo la pausa estiva, in cui sostanzialmente si sostiene che l'Italicum sia anticostituzionale. E questa mozione è stata messa all'ordine del giorno e quindi verrà discussa e poi votata. Ovviamente, come sanno tutti gli ascoltatori, una mozione non cambia una legge, insomma, però è un pressing forte, anche perché non dobbiamo dimenticare che presumibilmente a ottobre sull'Italicum si pronuncerà anche la Corte Costituzionale. E siamo alla vigilia, dovremmo essere, perché poi quando sapremo il giorno saremo più precisi, saremo alla vigilia del referendum costituzionale sul quale Renzi non cambia posizione, ovvero con toni meno, come dire, belligeranti e baldanzosi, però riproduce un po' lo schema, me ne vado. Diciamo che a Cameron questo schema non ha portato molto bene, come abbiamo visto. Qualcuno lega il referendum. No, ma va bene a legarlo, anche perché l'attenzione su questo referendum a livello internazionale è fortissima. Cioè noi dobbiamo renderci conto che l'Italia è un paese non solo fondatore dell'Unione, ma insomma è un paese molto importante. Cioè è un paese da un punto di vista economico molto importante, come numero di cittadini è un paese importante, cioè non è la Grecia, quindi l'eventuale passaggio della riforma costituzionale verrebbe interpretato, almeno così sostengono a Bruxelles e anche in altre sedi internazionali, come una difficoltà, insomma come la solita Italia che fa un passo avanti e due indietro. E quindi su questo c'è un'attenzione forte, e noi arriveremo peraltro a questa scadenza con una pressione dei mercati non indifferente, come stiamo vedendo anche adesso per quanto riguarda Brexit sui nostri istituti di credito. Non è una questione solo italiana, è una questione che riguarda anche altri paesi, compresa le banche tedesche, però non c'è dubbio che noi siamo in questo momento l'anello debole della catena. Quindi secondo me Renzi si giocherà alla carta del referendum ancora una volta, sia sui rischi che ne potrebbero conseguire qualora non passasse, ma anche legandolo all'Italicum, perché insomma abbiamo visto anche nei giorni scorsi lo stesso Movimento 5 Stelle che oggi dice no, noi sosterremo la mozione anti-Italicum eccetera eccetera, però nei giorni scorsi Di Maio aveva detto se cambiano l'Italicum è un boomerang, perché in realtà l'Italicum è l'unica legge che consentirebbe ai 5 Stelle di poter ambire al governo, perché c'è il ballottaggio, no? C'è la possibilità che si crei, come è avvenuto a Torino e a Roma, il tutti contro il PD. Tra l'altro c'è Renzi che scrive, perché arrivano le agenzie su quello che sta dicendo senza sosta a proposito della Brexit. Renzi dice tornare alla lira è una follia, per esempio. Poi sull'Italicum Renzi dice mi scrivono di non cambiarlo, a me lo dite, no, le risposte che sta dando man mano a chi gli scrive. Poi sul referendum Renzi dice rinvio no, tempi previsti dalla legge per il referendum di ottobre, quindi insomma non si torna indietro. Barbara Femmeri, io intanto ti ringrazio e ti saluto. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie, ciao Barbara. Ancora qualche messaggio dei vostri sull'inglese che potrebbe essere buttato fuori dalle istituzioni europee, sostituito con altre lingue, e, appunto, dicevo, soprattutto i tedeschi sono lì che fremono per, secondo voci di corridoio europee, per diventare la prima lingua. Pardon, dice questo ascoltatore, sostituire l'inglese un'emerita baggianata, piace o meno la lingua di scambio in tutto il mondo, e poi ogni semestre si potrebbe utilizzare la lingua ogni semestre potrebbe utilizzare la lingua del presidente di turno. Invece Nirvana scrive, piuttosto il greco, origine della cultura occidentale la nostra. Insomma, le cose si complicano. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Davide sulla pagina di Effetto Notte, pagina Facebook, dice: credo che chi propone ciò, cioè di estromettere l'inglese dalle istituzioni europee, si dovrebbe rendere conto che la Gran Bretagna non è affondata in mare, esiste ancora mania di protagonismo germaniche, dice Davide. Intanto vi ricordo velocemente le notizie più importanti di oggi: tensione Roma-Berlino sulle banche, basta riscrivere le regole, dice la cancelliera Merkel all'Italia, la flessibilità è un limite, Renzi dice noi non cambiamo le regole, gli ultimi a violarle siete stati voi. Poi l'Europa 27, il Consiglio Europeo avverte Londra, niente mercato unico, altrimenti deve stare a tutte le altre regole. Poi Istanbul sotto attacco terrorista, 41 morti all'aeroporto, 3 i kamikaze, allarme dei 007 già 20 giorni fa. Europa 24 notte. Negli europei di calcio sono segnati da molti disordini provocati dagli hooligans. Nelle prime fasi arriva la nuova convenzione per la sicurezza per gli stadi in Europa. Sarà firmata domenica simbolicamente allo Stade de France a Parigi. Risaliva al 19 agosto 1985 l'ultima convenzione dell'Unione Europea in materia di sicurezza negli stadi, un documento figlio dello shock emotivo suscitato dalla tragedia dell'Aizel, lo stadio di Bruxelles in cui meno di 3 mesi prima avevano perso la vita 39 persone. Separazione delle tifoserie e controlli preventivi fuori dagli impianti, le principali misure introdotte, misure bisognose, a più di 30 anni di distanza, di una revisione. A questa esigenza tenta di rispondere la nuova convenzione del Consiglio d'Europa, in accordo con la Commissione, convenzione che sarà ratificata il prossimo 3 luglio allo Stade de France di Parigi. La vice segretaria generale del Consiglio, l'italiana Gabriella Battaini Dragoni, ci illustra le novità contenute nel testo. La cooperazione che bisogna anche sviluppare a livello internazionale, perché ci sono informazioni per quanto riguarda gli hooligans, ma talvolta le informazioni non circolavano in modo appropriato per permettere ai servizi dei paesi che ricevevano le attività sportive di poter essere preinformati. Poi c'è il problema di come permettere un accesso tranquillo e sereno alle famiglie, ai bambini, ma anche poi alle persone disabili. E poi c'è anche l'aspetto di come procedere per le sanzioni, perché le persone non possono rimanere costantemente impunite o restare pochi giorni in prigione e poi essere rimandate nei loro paesi, come è successo in queste ultime settimane, perché poi chi ci garantisce che il paese di provenienza applicherà le sanzioni necessarie una volta questi fans siano condannati nei loro stessi paesi. Lei ha fatto riferimento agli episodi di violenza che hanno caratterizzato le prime giornate di questi europei. Questi episodi hanno riguardato principalmente le zone centrali della città più che i dintorni degli stadi. Come si possono evitare fenomeni di questo tipo e cosa prevede la nuova convenzione contro i disordini al di fuori degli stadi? Se iniziamo attraverso un lavoro di identificazione di chi entra nel territorio, se c'è un lavoro intenso con le federazioni sportive stesse e con i club, se già facciamo questo riusciamo ad evitare che ci siano provocatori presenti nelle città che creano disordine, che creano violenza. E responsabili di gran parte dei disordini in Francia sono stati gli ultrarussi, e proprio la Russia ospiterà i prossimi mondiali. Putin ha assicurato che quello che è successo in Francia servirà da lezione per garantire la sicurezza tra 2 anni. C'è da fidarsi? Tra i primi 10 che firmeranno la nostra convenzione a Parigi il 3 luglio ci sarà proprio anche il ministro russo Mutko, che prende molto sul serio questa questione, cominciando a prepararsi 2 anni prima e facendo una buona formazione professionale di coloro che avranno la responsabilità di organizzare i servizi di sicurezza sono convinta che si riuscirà a eliminare già alla radice una serie di fenomeni che, se non controllati, effettivamente poi rischiano di far esplodere la situazione. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Chi le pensa è un perdente. Penso semplicemente questo. Chi pensa che allora hanno riposato un giorno in più e allora manca questo e allora manca quell'altro. Sono solo scusanti dei perdenti. Dobbiamo prendere solo forza da queste cose e metterle in campo, perché sappiamo che uniti tutti e 23 possiamo veramente fare qualcosa di importante. Abbiamo scalato una vetta importante, ma adesso abbiamo l'Everest davanti. Uniti e con la consapevolezza che siamo una buona squadra, possiamo veramente fare qualcosa di importante. Così si carica Florenzi in vista di Italia-Germania di sabato. Non è vero, Dario Ricci da Montpellier? Dario, in Francia? Sì, proprio così, Roberta. E poi è bello sentire queste parole che vanno un po' contro il costume nazionale, no? Dell'italiano piagnone, pronto sempre a lamentarsi, a trovare non ce la scusa. Faremo, chissà. Non ce la faremo, c'ho il dolorino, oddio, oddio, che succede? No. Invece no, Florenzi allontana queste scuse, questi alibi che pur ci sarebbero, perché ci mancherà Thiago Motta squalificato e molto sicuramente anche Candreva infortunato, e molto probabilmente non darei più di un 10% di possibilità anche Daniele De Rossi, che pure era stato uno dei migliori in campo, finché in campo c'era rimasto, con la Spagna. Quindi, però, questa Italia sembra capace, almeno per la forza di volontà, almeno per la forza di nervi, di andare oltre queste assenze, o quantomeno non utilizzarle come alibi. Staremo a vedere cosa accadrà sabato a Bordeaux alle 21, perché di fronte abbiamo i campioni del mondo, di fronte abbiamo una Germania di cui i media già si dicono certi della vittoria. Evidentemente le tante sconfitte che invece hanno subito in passato stanno creando già qualche preoccupazione. Tu che dici? Beh, Dario, dico che la partita è già praticamente iniziata, almeno nelle parole e negli Brava. Atteggiamenti, e quindi no, per il resto ci manteniamo prudenti al di là delle cariche personali. Grazie Dario Ricci, ci collegheremo presto ancora domani, che ci aggiornerai. Ora invece noi ci dobbiamo lasciare brevemente per risentirci alle 22.